Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo del libro Il dono e lo scambio di Dario Antisari e Giacomo Panizza. Buonasera, dottor Antisari. Buonasera a lei. Anzi, professor Antisari, professore emerito alla LUIS, attualmente membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Alti Studi del Collegio San Carlo di Modena. Ha scritto libri che, se dovessi enumerarli tutti, utilizzeremo tutto lo spazio di questa rubrica. Un grande filosofo, grande conoscitore, soprattutto della scuola austriaca, da Hayek a Popper e così via. E buonasera a don Giacomo Panizza. Buonasera. Don Giacomo Panizza, sacerdote, ha fondato la Lamezia Terme e la comunità Progetto Sud, promotrice di lavoro sociale e solidarietà sul territorio. Ecco, quindi un dialogo in fondo in questo libro edito da Rubettino, un dialogo in cui si cerca di far luce sulla realtà del mercato e sulla realtà di quello che può dare più forza al mercato, che è il dono. Quindi, professore Antisari, non c'è una contraddizione tra lo scambio e il dono, che è il titolo di questo libro? No, non c'è affatto una contraddizione. Beh, innanzitutto, dottor Fabi, mi permetta di dire una cosa: io sono molto lieto e sono veramente onorato di aver scritto questo libro insieme a don Giacomo Panizza, un uomo molto dotto e anche molto generoso, da cui c'è molto da imparare. Questo è il primo punto che, ecco, mi piace sottolineare. Ma come diceva lei, indubbiamente, ecco, non c'è uno scontro, diciamo così, tra lo scambio e il dono, anzi sono molto complementari e intersecati, perché quando noi parliamo di scambio, parliamo appunto di uno scambio di merci, beni e di servizi, e ovviamente si ha lo scambio allorché coloro che scambiano sono liberi di scambiare appunto queste merci e servizi. Quindi lo scambio non va confuso né con la sopraffazione, né con il furto, né con la conquista. Questo è un punto, mi pare, molto fondamentale. E vorrei dire subito una cosa, perché proprio nel primo capitolo, nelle prime pagine del libro, discutiamo con don Giacomo Panizza di questo fatto, cioè che quando noi scambiamo merci e servizi non sono cose neutrali, perché noi vediamo che, per esempio, addirittura la filosofia nasce appunto nei porti, cioè laddove la gente scambiava merci, ecco, nascono anche il contrasto tra idee, perché i mercanti portavano delle merci, ma ogni merce appunto c'ha dentro un valore, c'ha dentro delle conoscenze. Ecco, qui facciamo parlare ancora don Giacomo Panizza. Don Giacomo Panizza, anche lei è d'accordo o privilegia il dato della solidarietà, del dono, della possibilità di appunto instaurare dei rapporti che non siano basati solo sull'interesse? Don Giacomo Panizza. Ma la dimensione del dono e la dimensione del mercato, io sono d'accordissimo con il professore Antisari, perché sono due dimensioni della persona umana, sono due dimensioni della vita civile, sono due dimensioni della vita mondiale addirittura. Perciò il mercato certo ha la sua dimensione di far pagare un prezzo a ciò che viene prodotto, venduto, commercializzato, eccetera. Anche il dono però non è un'attività a senso unico che qualcuno riversa sempre tutto sugli altri, anche questo ha bisogno di scambiare, senza prezzo, ecco, senza prezzo. Perciò sia nella vita dei mercati, sia nella vita delle relazioni umane di solidarietà, eccetera, c'è qualcosa che si chiama la fiducia, che non può mancare né nell'uno né nell'altro. Cioè entrambi, queste due dimensioni, sono dimensioni della persona umana, della vita civile, della vita sociale e anche della vita economica, vorrei dire anche della vita politica. Ecco, ma don Panizza, lei opera in Calabria, nella realtà calabrese oggi, in questo 2012, è possibile realizzare delle iniziative economiche che poggino su questi due elementi, sulla solidarietà e sul profitto? In Calabria più che altrove, nel resto d'Italia, perché c'è un profitto, c'è un mercato che è drogato dai poteri forti, ad esempio dalla 'Ndrangheta e così via, oppure da questo mondo della finanza che paradossalmente in Calabria le banche eccetera, fanno pagare più che altrove, pur essendoci povertà. Perciò un atteggiamento etico nei confronti delle relazioni umane di solidarietà, una dimensione etica anche del mercato è essenziale, è importantissima, insomma. Ecco, ma in questa prospettiva, mi rivolgo al professor Dario Antisari, diventa fondamentale anche il ruolo della politica, una politica che deve essere attiva, deve dare delle regole che possano liberare delle risorse, delle regole che non opprimano, ma che possano aiutare il mercato a crescere. Ecco, esattamente. Prima di rispondere però a questa sua domanda, molto interessante, molto importante, io vorrei dire una cosa. Lei ha parlato prima di il mercato e l'interesse, ma nel mercato non c'è solo l'interesse, c'è anche una grande convenienza, perché se una ditta farmaceutica scopre una molecola che guarisce il cancro, diciamo così, ecco, questo è venire incontro a un bisogno dell'altro, e quindi il mercato non è solo interesse, ma anche convenienza, bisogni che vengono soddisfatti. Ma lei mi fa una domanda in cui dice, ma insomma, per lo sviluppo, per la crescita, perché ci sia mercato, un mercato che fiorisce, diciamo così, e la politica deve fare qualcosa. E questa infatti credo che sia la cosa. Perché oggi, per esempio, in Italia non si fa altro che parlare di crescita che manca, di sviluppo appunto che non abbiamo. Ma io, ecco, pongo a Don Panizza, ma pongo appunto anche a lei, dottor Fabi, questa domanda. Cioè, quando noi parliamo di crescita appunto dal punto di vista economico, parliamo di investitori, di imprenditori che, ecco, mettono il loro capitale, le loro conoscenze, le loro risorse umane e vengono a investire sia stranieri sia italiani in questo nostro paese. Ora io le faccio una domanda, dottor Fabi. In un paese come il nostro, dominato per tre quarti dalla criminalità organizzata, con un fisco esorbitante, una burocrazia asfissiante, una politica corrotta, e le banche che non danno credito, ma chi viene a investire nel nostro paese? Chi è che farà sviluppo? Questo è un fatto, è una domanda che dobbiamo tutti porci, perché al di là delle chiacchiere, questo è veramente il problema. Allora io faccio ancora un'altra domanda: come mai non ci può essere una legge che dice, per esempio, che tu comune, tu regione, tu provincia, se fai un appalto devi avere una copertura finanziaria, per cui l'imprenditore che ti fa questo lavoro deve essere pagato dopo 30 giorni. Questo mi pare che sia una cosa che deve essere fatta, perché altrimenti gli imprenditori da noi o appunto chiudono o vanno all'estero, ovvero si ammazzano. Ecco, questa non è filosofia, ma è senso pratico, che sì, forse è buon senso. È buon senso. Il buon senso, come diceva appunto Cartesio, è la cosa meglio distribuita al mondo, se non che se ne vede poco però. Ecco, in questa prospettiva le domande che ha fatto Dario Antisoli sono domande che hanno già in loro la risposta, perché già delineare appunto questi problemi e dire che questi problemi vanno risolti, e vanno risolti ovviamente da una realtà politica che ha delle responsabilità precise, ma anche da una realtà sociale che deve in fondo sollecitare la politica a dare delle risposte. In questa prospettiva, Don Giacomo Panizza, le chiedo se anche i comportamenti delle persone sono fondamentali per creare questo rapporto dialettico ma costruttivo tra solidarietà e scambio. Sono davvero fondamentali, perché non è che gli automatismi dello spendere o gli automatismi dell'aggredire, gli automatismi dell'imbarbarire e le relazioni e i mercati vadano bene. C'è un equilibrio da continuamente costruire, ripeto, non c'è la chiave magica, la bacchetta magica, c'è un equilibrio costantemente da costruire, a mio avviso, su questo discorso della crescita, dove le merci sono anche spesso beni. E quei medicinali di cui parlava prima il professore, ecco, certe volte qualcuno pensa di venderli a prezzo altissimo, non so, in certe zone dell'Africa o in certe zone dell'America Latina e così via. Cioè, ecco, c'è che i comportamenti che diventano anche richieste di etica, non soltanto richieste perché si ha bisogno, cioè è etico, è umano che certe merci vengano condivise un po' tra tutti e che non abbiano l'etichetta del mercato libero nel senso di alcuni proprietari di tutto. Certo. Ecco, in questo senso nel libro anche il professore proprio sostiene proprio che i proprietari dei mezzi diventano poi anche determinano i fini dell'etica, della politica e così via. Perciò davvero quello che chiamiamo la crescita, l'evoluzione, la umanizzazione dei mercati e delle relazioni umane, ecco, vanno proprio di pari passo con delle regole che non sono più ormai solo statuali ma sovranazionali, e vanno anche di pari passo con i comportamenti delle persone, che sono comportamenti che richiamano la felicità, la fiducia, le relazioni amicali, e non che uno sia Caino per l'altro. Certamente, come dice Florindo Rubettino, l'editore, nella sua introduzione, nella sua nota introduttiva al libro, nelle argomentazioni di Antisoli e Panizza, che muovono da punti di riferimento ed esperienze diverse, si ritrova la convinzione che senza il dono, la gratuità e l'amore, la sola economia non basterebbe agli uomini, ma che senza l'economia e quindi lo scambio non si genererebbe crescita, libertà, benessere e quindi anche maggiore solidarietà. Ecco, su questo Verissimo. tema, ma abbiamo parlato. Io ringrazio Dario Anteseri e Don Giacomo Panizza di essere stati con noi questa sera. Vi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, edito da Rubettino, Il dono e lo scambio, è appunto un dialogo tra Dario Anteseri e Giacomo Panizza, sono 90 pagine per 10 euro. Grazie anche a Peter Bascapè in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito radio24.it. Grazie e l'appuntamento è a sabato prossimo.